Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, in un orario un po' inusuale per il sottoscritto. Sono qui negli studi di Blu Radio Veneto perché è una serata un po' particolare, speciale. Abbiamo un ospite che è venuto a trovarci dalla capitale, da Roma. Buonasera. Valerio Billeri, che è anche una nostra vecchia conoscenza, è un musicista di talento che ha sempre la passione per fare delle cose particolari. L'ultima volta che siamo stati insieme in questo studio, Valerio mi ha anche fatto fare la voce recitante con mio grande imbarazzo, ma è stata perfetta, troppo buono. È stata una bella serata, che probabilmente qualcuno di voi si ricorderà. Si festeggiava, diciamo, si celebrava anzi il 150° anniversario dell'Unità d'Italia attraverso un percorso di musica e parole che Valerio aveva pensato e realizzato. Adesso è qui per presentarci il suo nuovo disco con la sua band che si chiama I Pezzi d'Assemblaggio. Sì. E il disco si intitola Vintage Radio ed è un disco particolare, diciamo, per il modo in cui viene distribuito, venduto e per l'operazione che ci sta dietro. Infatti si tratta di un album che Valerio ha realizzato per dare sostegno alla FAIP, Federazione Italiana Associazioni Para Tetraplegia. È un po' complicato. Uno scioglilingua. Esatto. Avremo modo di parlare di questa associazione con il presidente della stessa, che fra poco sarà in contatto telefonico con noi, ci spiegherà cosa fanno e come è strutturata, insomma un po' di cose sulla loro attività. Però la trasmissione sarà anche piena di musica, visto che Valerio naturalmente non è venuto disarmato, c'ha la chitarra. C'è la chitarra, l'armonica, per farci ascoltare appunto le canzoni di questo disco che si intitola, come ho detto prima, Vintage Radio, la radio d'epoca. Sì, sì, non, che è quella che faccio io ormai, vista l'età. Fuori dal tempo, non MP3, non scaricamenti download, ma soltanto rock and roll, CD e vinile. Come una volta, insomma, blue collar. Infatti c'è anche una radio d'epoca sul... È stato registrato tutto in presa diretta poi. Ah, come se fosse un live, in sì, pratica. Sì. Questo è importante perché anche bisogna avere dei musicisti in grado di reggere, diciamo, questo tipo di sfida. Allora, ci ascoltiamo subito la canzone che dà il titolo al disco e poi torneremo in diretta qui nel nostro studio per parlarne. Dalla stanza d'ingresso mi muovo a ridosso, la mia ombra mi segue ovunque, ma non c'entra la luce. La stanza è piena di voci e parole, la polvere ovunque, sulle scarpe e nel cuore. La radio emette un ronzio che non vuole cessare. E quando il sole scende lento, c'è odore di te e l'orologio batte il tempo veloce per me. E ogni minuto, ogni momento io penso a te. Onde radio nella mia mente, dalla stazione che trasmette emette una luce divina, le foto di lui le hai chiuse in cantina e il vestito da morto lo posso ancora indossare. E quando il sole scende lento c'è odore di te e ogni minuto, ogni momento io penso a te. Batte il tempo veloce per me. sul frigo, il vento brucia, il vuoto estivo circola nelle vene come veleno. E quando il sole scende lento, c'è duro di te, e l'orologio batte il tempo veloce per me. E ogni minuto, ogni momento, io penso a te. E l'orologio batte il tempo veloce per me. Bene, abbiamo ascoltato allora la canzone Vintage Radio. Questo è un disco in cui ci sono anche poi degli ospiti che hanno partecipato, delle collaborazioni, ma magari ne parliamo dopo, perché adesso volevo farti suonare qualcosa, Valerio. Okay. Suonerò La Valle dal disco, un pezzo abbastanza oscuro che rende bene dal vivo. Benissimo, allora siamo dal vivo qui su Blu Radio Veneto, è Valerio Billeri con La Valle. Vagone in corsa, la luna filtra tra le assi scheggiate, la tempesta elettrica ha smesso il suo frastuono, lasciando sul posto ombre spezzate. Nuvole nomadi inseguono il treno lungo la valle che porta la gola. Qualcosa attira la nostra attenzione, una frase sconnessa, una lettera, un voto. I nostri volti neri di fumo, occhi spenti, divise stracciate, i fucili ammassati sul pavimento, il sangue dei vinti sui nostri stivali. Trovai un cappello, cambiai il mio volto in un altro uomo, le mie gambe diverse, una casa in collina, portavo un lungo cappotto nero, vibra il pensiero e finisce nel sonno. Fienile in fiamme, la bandiera al vento. Mio padre è dritto come una statua, la sciabola al fianco, il levriero d'argento. In soffitta c'era un vecchio fucile, lasciato lì perché non sparava. Puntai al cuore, schioccai la lingua, finì nel fiume, senza negare. strana mania, che strana mania. Da ragazzo collezionavo occhiali, il capitano colleziona denti, li strappa al nemico per farci collane. Questa era La Valle, in effetti è un pezzo un po' tenebroso. C'è quella frase sul lungo cappotto nero, che è un riferimento a Dylan. Sì, a Dylan e a Johnny Cash. Sì, appunto, The Man in the Long Black Coat, si riconosce, insomma. Allora, adesso ci metteremo in contatto telefonico con l'avvocato Vincenzo Falabella, che della FAIP è il presidente, e ci racconterà un po' delle loro attività. Allora, avvocato Falabella, la ringrazio per essere qui presente, diciamo, anche se solo telefonicamente, nei nostri studi. E io ho un attimo studiato la vostra associazione. Mi pare di capire che la FAIP è nata per unificare una serie di associazioni preesistenti, è giusto? Sì, la FAIP è una federazione che raggruppa al suo interno le 22 associazioni territoriali di ogni singola regione, in alcune regioni abbiamo anche diverse realtà associative, con l'intento di uniformare un pochettino l'idea politica che la federazione portava avanti, unificando gli intenti costruttivi per migliorare la qualità di vita delle persone con lesione al midollo spinale che vivono sull'intero territorio italiano. Visto che si parla di 75.000 persone, quindi una città in pratica. Sì, noi contiamo, non abbiamo dei dati epidemiologici certi, noi abbiamo in questi anni, in questi circa 30 anni di attività, perché la federazione è nata nell'85, abbiamo cercato di condurre degli studi cercando di avere una mappa delle persone che in Italia avevano una lesione al midollo spinale, e oggi siamo arrivati ad una cifra che sottostimiamo sotto certi aspetti, perché noi ci attestiamo intorno ai 75-80.000 persone con lesione al midollo spinale, però si presuppone che siano molto di più. Ah, quindi non esiste un database sicuro? Non abbiamo dati epidemiologici in tal senso, purtroppo. Ci stiamo lavorando col Ministero, avevamo raggiunto anche con il vecchio governo un piano per portare alla costituzione dei cosiddetti registri sia regionali che nazionali che ci potessero dare dei dati epidemiologici certi su quante persone oggi vivono in Italia con una lesione al midollo spinale. Scusi il mio stupore, ma io così nella mia ignoranza davo per scontato che a livello di Ministero della Sanità ci fosse un computer, bastasse premere un pulsante per sapere un dato che mi pare veramente importante per pianificare poi le politiche. La vostra federazione immagino faccia anche, diciamo, un'attività nel senso positivo di lobby per avere un appoggio politico per le varie legislazioni che servono per facilitare la vita ai vostri associati, mi pare di capire che sia la nostra politica è una politica finalizzata a interloquire con il Ministero in questo caso, ma dopo la modifica del titolo V della Costituzione, quindi che ha demandato il potere legislativo per quanto riguarda in ambito di salute, di sociale alle singole regioni, quindi il nostro operato è avere delle linee guida nazionali, delle normative nazionali che poi abbiano dei risvolti regionali, e quindi le singole regioni che recepiscono le direttive nazionali per poter comunque avere come obiettivo fondamentale, quello della presa in carico globale di una persona che subisce una lesione al midollo spinale e che abbia che abbiano delle politiche sociali finalizzate al miglioramento della qualità di vita di queste persone. E parliamo di persone naturalmente con problemi di diversa gravità fino alla paralisi completa, giusto? Sì, abbiamo, diciamo che la lesione al midollo spinale può avvenire in tre parti della colonna vertebrale. Abbiamo una prima parte cervicale che un'eventuale lesione cosiddetta alta porta al non utilizzo più per la persona sia degli arti superiori che degli arti inferiori, quindi una tetraplegia. Mentre invece se la lesione avviene nella zona toracica o nella regione basso dorsale, abbiamo una paraplegia con la non funzionalità soltanto degli arti inferiori. A tutto questo poi si associano una serie di situazioni, il non utilizzo della vescica, dell'intestino e quant'altro, che portano comunque ad avere una qualità di vita molto molto bassa. Una presa in carico globale, quindi una riabilitazione non soltanto sanitaria ma anche e soprattutto sociale, sicuramente può restituire alla persona che ha subito una lesione al midollo spinale, può restituire quella dignità di persona e quindi quel reinserimento nella vita sociale, affettiva, lavorativa che la stragrande maggioranza dei nostri associati già fanno, insomma. Benissimo. Se ci spiega un attimo materialmente sul territorio, la FAIP ha delle attività, delle sedi in cui la gente può eventualmente iscriversi o appoggiare in qualche maniera? Sì, la federazione è una, diciamo, una federazione ad ombrello dove aderiscono le diverse realtà associative territoriali. Qualsiasi persona può prendere contatti con l'associazione di riferimento, quindi basta andare sui siti internet e cliccare, scrivere magari associazione paraplegici Lombardia o associazione paraplegici di Roma e del Lazio, che viene fuori una serie, vengono fuori una serie di indicazioni, di indirizzi dove poter comunque prendere tutte le informazioni che si richiedono, insomma. Ecco, visto voi siete una onlus, quindi è possibile anche contribuire finanziariamente, immagino, con la detrazione fiscale? Sì, noi abbiamo già fatto, importante. Abbiamo richiesto quest'anno l'iscrizione per il 5 per 1000, anche se la situazione economica è quella che è, comunque sì, abbiamo dei conti correnti, uno in particolar modo sul nostro sito è ben menzionato, acceso presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, dedicato esclusivamente alla ricerca, perché è vero che noi facciamo politica e quindi siamo interlocutori privilegiati con il Ministero, con le istituzioni regionali e quant'altro, però uno degli obiettivi per i quali la federazione sta lavorando già da diverso tempo è la ricerca scientifica. Purtroppo in Italia non vi sono progetti finanziati dal nostro governo, dallo Stato italiano, e pertanto cerchiamo di reperire quei fondi necessari per destinarli a dei laboratori italiani che studiano comunque la rigenerazione, faccio un esempio, delle cellule staminali, quindi o quei laboratori di base che hanno come finalità ultima quella di migliorare sempre la qualità di vita delle persone. Ah, bene, lei ha già anticipato la mia ultima domanda, che era appunto riguardo alle prospettive della ricerca. Naturalmente, diciamo, diamo il nostro massimo appoggio a questi ricercatori e sarebbe ancora più bello se fosse un ricercatore italiano a ottenere il risultato, ma anche se arrivassero i risultati positivi dal Giappone o dall'Australia, penso che dovremmo felicitarci nella stessa maniera. Noi le rubo qualche altro minuto solo per dire che in occasione della giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, che è stata indetta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile di ogni anno, noi come federazione quest'anno stiamo organizzando insieme al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità un convegno scientifico dove i nostri laboratori, quei laboratori che sono stati finanziati con i soldi che la FAIP ha raccolto grazie alla sensibilità delle persone dell'opinione pubblica che hanno contribuito a finanziare questi laboratori, faremo questo evento all'interno del quale i laboratori di ricerca porteranno all'opinione pubblica i risultati che hanno raggiunto. Devo dire che sono dei risultati ottimali, quindi questo ci fa ben sperare e ci dà la spinta per poter proseguire su questo terreno. Molto bene, anche importante fare vedere appunto alle persone che contribuiscono che i loro contributi hanno appunto una realizzazione, hanno uno scopo pratico, perché molte volte la gente ha un po' paura, ecco, di queste cose, certo, non si sa. Certo. Ma noi abbiamo qui anche Valerio che fa da garante, lo conosco bene, per cui anche lui è una garanzia. Valerio va un plauso particolare, perché quest'anno abbiamo voluto utilizzare la musica come veicolo per sensibilizzare i nostri contribuenti, quelle persone che vogliono contribuire alla ricerca scientifica. Valerio con il suo gruppo si è messo a disposizione e abbiamo iniziato questo percorso di collaborazione che spero possa portare quei risultati per i quali è stato programmato il tutto. Ma siamo sicuri di questo, anche perché Valerio è molto bravo. Sì, su questo sì, non ho dubbi. Bene, bene, non hai mai detto fino ad oggi. È vero, sono stato preso da questa intervista, ecco, quindi mi sono lasciato andare. Te faccio intervista più spesso allora. Bene, avvocato Falabella, io la ringrazio molto del suo tempo, della sua disponibilità, e naturalmente le faccio i migliori auguri per il proseguio dell'attività della sua associazione. Siamo sempre disponibili per supportare, aiutare nei limiti delle nostre possibilità qui di Blu Radio Veneto le vostre iniziative. Io ringrazio lei, ringrazio tutti i radioascoltatori che sicuramente saranno attenti a alle politiche che la federazione e le tante persone con lesione al midollo spinale mettono in atto costantemente. Quindi io mi auguro che da questa intervista e da questa trasmissione possa venire fuori comunque una campagna di sensibilizzazione utile agli scopi della nostra federazione. Quindi grazie a voi per il tempo che ci avete dedicato. Grazie a lei, arrivederci. Salve. Bene, ringraziamo ancora l'avvocato Falabella, con cui sento sei in rapporti molto amichevoli, che erano antecedenti alla nascita di questo disco. Sì, sì, sì, lo conosco da prima. Ah. Purtroppo. No, vabbè. allora, adesso una direi... Una persona, una bravissima persona l'avvocato Falabella. Devo rifarmi di quello che ha detto adesso. Ci ascoltiamo un'altra canzone dal disco, che è il pezzo che lo apre, si intitola La lunga estate calda. E poi prepara la chitarra che ti faccio suonare ancora. Ok. Le mie parole sono un dono al vento, alte fiamme salzano su ogni campo, la cenere secca gli occhi e brucia il cuore, la lunga estate calda tarderà. Avessi avuto del tempo, se tu m'avessi ascoltato per un solo momento, il battito discontinuo del mio cuore, la lunga estate calda tarderà. A cercare là nella casa deserta dalle immagini sacre, ma un ramarro ha morso il mio dito avvelenandomi il cuore, la lunga estate calda tarderà. fini. Allora, abbiamo ascoltato questo brano, La lunga estate calda, strategicamente piazzato in apertura dell'album, con un andamento così un po' epico, diciamo. Alla Neil Young, sì, ecco. I tuoi riferimenti musicali mi sembrano espliciti, appunto, da Neil Young, Springsteen, Dylan, in Italia magari Bubola. Sì, Massimo Bubola, Fabrizio De André. Sì, ma De André ormai non è neanche detto, perché sembra quasi banale, ormai sì. anche quelli che fanno disco music dicono di rifarsi a De André. Sì, sì, è obbligatorio dirlo. No? Va bene, dai, adesso ci canti qualcos'altro. Un outtake, sì, si chiamano così. Outtake, sì, un brano che... serie le chiamano così, un brano scartato dal disco. Allora sentiamo se riusciamo a capire perché l'hai scartato. Come si intitola? Dietro la porta. Dietro la porta. Padre è un galantuomo, giù al fiume al suo lavoro, credo sia contrabbandiere. Torna la sera tardi, lui crede che io non lo guardi, quando fuori in veranda si mette a bere. Mia sorella dorme sola e sotto le lenzuola, la sento sognare un uomo. Mi dice, oh fratellino, sei ancora piccolino, di donne tu che mai ne puoi sapere. E la notte scende sull'intera valle, le rane cantano fuori e forse il diavolo è in agguato nelle mie scarpe. E io sono pronto a fare la mia parte. Fuori la finestra c'è il silenzio e basta, ma il rumore qui nella mia testa. Vedo cose strane e sogno di volare, godo di ogni dama del gran reame. Nel bosco addormentato c'è un buco non scavato, dove riposa l'ombra del mio peccato. Con lei posso giocare, con lei posso parlare, con lei faccio la mia guerra. E la notte scende sull'intera valle, le rane cantano fuori e forse il diavolo è in agguato qui nelle mie scarpe. E io sono pronto a fare la mia parte. Cosa mai mi tocca fare dalla finestra come un ladro a uscire? Tra serpenti e copertoni o fantasmi state buoni, che il sentiero nel bosco vado a fare. Vestiti mia sposa, regina vanitosa, stella per cui fare ogni cosa. Un gioiello ancora intatto, sensibile al tuo tatto, con cui tu ti puoi dilettare. E la notte scende sull'intera valle, le rane cantano fuori e forse il diavolo è in agguato qui nelle mie scarpe. E io sono pronto a fare la mia parte. E io sono pronto a fare la mia parte. E io sono pronto a fare la mia parte. Potevi anche metterla nel disco, no? Perché nel prossimo. Nel prossimo. Vintage Radio a 10 brani dura poco meno di 40 minuti, è un minutaggio un po' da vinile, vecchio stile. Sì, penso sia una scelta voluta, giusto? Sì, sì, i dischi quelli troppo lunghi per me distolgono l'attenzione, dopo un po' la gente non li segue più. Lo noto anche con i dischi che compro. Dopo mezz'ora che li sento, dopo comincia piano piano a... Tranne qualche eccezione, sì. Dylan può fare anche un disco di 60 minuti. Dylan può fare quello che gli pare, può anche ormai non canta neanche più. Va bene. Il prossimo brano che ci ascolteremo dall'album è una cosa particolare, prima di tutto perché è l'unico pezzo col titolo in inglese, ma anche cantato in inglese. Si intitola Have I Right? Ed è la collaborazione con un comune conoscenza, Willie Nile, che è stato seduto dove sei tu adesso un annetto fa, ha suonato qui con la sua band, è un personaggio veramente straordinario, umanamente prima ancora che musicalmente, sì, sì, direi, perché personaggio. Pur essendo un grande musicista è una persona dal cuore d'oro, infatti mi dicevi non è stato difficile convincerlo. No, subito, a differenza di molti grandi artisti, adesso non sto a parlare, però lui ha subito detto sì. Sono andato a vederlo a un concerto, sai che adesso a Roma si usa, fa come negli anni 50, fanno i concerti nelle terrazze. Ci sono questi artisti, Willie Nile, fanno un giorno un mio amico mi chiama e dice guarda c'è Willie Nile a casa mia. Che se avessi una terrazza a Roma lo farei anch'io, non è una cosa così. Io pure ho detto a casa mia c'è Paul Simon, che famo, vieni te o vengo io. Però in verità poi Willie Nile c'era davvero. E lì ho chiesto a questo mio amico Antonio Zirilli, che suona anche nel disco, sia su 30 giorni che sul pezzo con Willie Nile, se poteva nascere una collaborazione con Willie Nile. Hanno dato questo pezzo che lui aveva già suonato e ha detto fate quello che vi pare, metteteci le voci, aggiungete chitarre, togliete... Fiducia totale nel prossimo. Veramente... E neanche l'ha voluto sentire poi, perciò... si è fidato, diciamo... Per me si è dimenticato pure che l'ha dato, perché è talmente generoso che lui... Come vari artisti americani. Sì, sì, beh, non mi stupisco appunto perché avendolo conosciuto, lo so, è una persona che suona... senza il minimo pensiero economico, lui proprio vuole soltanto che la musica giri, che la gente la apprezzi, che serva ad aiutare le persone. Come diceva Alberto Sordi, gli americani sono forti. un tuo compaesano, diciamo. Allora ci ascoltiamo questo brano, appunto Have I Ever Right, con Willie Nile e Antonio Zirilli. Sì, partecipano anche i Blast Waves. Il gruppo. Ok. Blu Radio Sera. Oh, Bene, allora siamo ancora qui in studio con Valerio Billeri, qui a presentare il suo album Vintage Radio con la sua band, cioè il disco è con la sua band, i pezzi d'assemblaggio, come ve lo siete inventati questo nome? E non... serviva un nome rock, una cosa da fabbrica, ingranaggi blue collar, rock, capisco, e quindi... non ci veniva niente, tutti i nomi che avevamo provato erano abbastanza ridicoli, tipo neanche mi vengono più in mente i cani da rapina, queste cose così. Cioè, alla fine abbiamo scelto i pezzi da assemblare. Ho scelto perché tu sei il capo, diciamo. No, il capo non è nessuno, noi abbiamo una collaborazione, anzi loro sono, come musicisti sono molto più bravi di me, tutti quanti. Allora io volevo citarli, cioè... sono scritti molto piccoli qua, comunque dovrei riuscire a leggere: Alessandro Cefalia al basso, Gianni Ferretti piano e tastiere, Daniele Giovannoni alla batteria e Fabio Tempesta alle chitarre elettriche. Questo è un nome d'arte o si chiama davvero Tempesta? Si chiama davvero Fabio Tempesta. E fa il chitarrista, è anche un maestro di yoga. È interessante dualismo, direi, perché molto, infatti lui è una persona abbastanza dualistica, lo yoga e la chitarra rock non le vedo proprio normalmente insieme, yin e yang. Allora Davide, dopo il pezzo con Willie Nile è un po' impegnativo, ma devi suonarci qualcos'altro. Sono un pezzo oscuro di nuovo. Un pezzo oscuro. Il pezzo che nell'album è suonato pianoforte e voce, La Santa Rossa, viene preso dal racconto di John Steinbeck che si chiama anche esso stesso La Santa Rossa. Adesso lo vado a suonare. Benissimo, allora Valerio Billeri dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Morgan se ne stava sul tetto della nave a controllare il vento, a controllare il mare, lo sguardo sopra il ponte, il mare lo induriva, disse: per me la vita è un inferno, per me la vita è bufera. Oh mio buon capitano, ma è vero ciò che il vento sussurra nella notte, ma è solo un grande inganno che a Panama ci sia così talmente oro da ricoprire la nave facendone un tesoro. E poi che ci sia lei, donna così devota, al seme del marito, che l'ha legata in sposa, si dice sia una santa, Madonna che ristora, il male che si ha dentro, quando si cresce in strada. Non so chi dica questo, o se è solo leggenda, ma il furore è forte e vuole che io la prenda. Tenetevi il tesoro, ma a me la Santa Rossa, che con un solo tocco delle labbra guarisce da ogni cosa. Il sole essiccava la testa dei ribelli, Sir Morgan controllava la concia delle pelli. Nessuno ha detto questo, nessuno mio signore. Chi semina speranza genera dolore. Thank you. la Santa Rossa, qui sono riferimenti a Steinbeck, quindi andiamo su cose di peso, diciamo, letterariamente parlando. Prima che cominciassimo la trasmissione, tu mi hai detto che il disco è stato registrato in presa diretta. Sì, sì. Quindi, ma proprio come un live? Sì, basso, batteria, chitarra acustica, elettrica. Niente sovraincisioni? Le tastiere dopo, per motivi che rientravano nel... Sia il piano che le tastiere, il suono degli altri strumenti rientrava nella cassa armonica nel piano. Quindi ragioni tecniche, diciamo. Sì. Bene, quindi abbiamo anche un'idea, ascoltando il disco, di come suonano i pezzi d'assemblaggio. Suonano bene. Dal vivo, sicuramente, ma speriamo di vedervi anche in Veneto prossimamente. A Vicenza il 24 di marzo, alla fiera. Alla fiera di Vicenza, bene, sì. Allora non so che fiera ci sia a Vicenza, ma comunque... No, c'è una fiera, la fiera è un posto dove... Sì, sì, sì. C'è, no? Un convegno, penso, organizzato dalla FIPE anche. E penso che sia sul turismo accessibile alle persone con disabilità. Ah. C'è questo convegno e noi presentiamo il disco lì alla fiera, in una sala della fiera. Bene, allora un appuntamento da comune segnarsi. Permettendo. Beh, penso che insomma sia una cosa che non dovrebbe creare nessun tipo di polemica o discussione, insomma, sul fatto che si debba fare tutto quello che è il nostro potere per aiutare le persone disabili. Insomma, per fortuna è una delle poche cose su cui i politici italiani non si mettono a strapparsi i capelli. L'appoggio qui della federazione è una cosa particolare per una band, nel senso che vi porta probabilmente appunto a suonare anche in situazioni molto diverse da quelle a cui eravate abituati, e anche con un pubblico, immagino, molto diverso. Sì. E l'effetto che fa? L'effetto è uguale, anzi forse anche molte persone apprezzano anche di più quello che fai, ascoltano con maggiore interesse i testi. Quindi... Infatti cerchiamo sempre di suonare un po' più piano del solito quando su queste occasioni. Beh sì, immagino che anche suonare magari che sono in un teatro per una manifestazione del genere o in fiera dopo un convegno non sia come suonare in una birreria dove... No, col freno a mano tirato, mi hanno detto, no? Sì, stare un po' tranquillo. No, ma anche insomma, in certi locali suonare forte non è una scelta ma è un'imposizione, nel senso che dovete... è terribile, in certi locali farlo. Quando fai il pezzo acustico sugli immigrati che passa quello con la sarciccia davanti o il panino che ti mangiano... È terribile. tu stai lì che ti impegni a essere drammatico, ma non ci riesci proprio. Cioè, specialmente a Roma. Beh, ma insomma, non penso faccia molta differenza anche in altre città. Insomma. Le salsicce piacciono anche qui. Tanto. Sì, ma le esclamazioni del pubblico sui pezzi lenti non sicuro che. Allora, ci ascoltiamo un altro brano dal disco, questo pezzo si intitola Nuovo Giorno, e anche qui c'è un ospite, giusto? Massimiliano Rocca, il grande Massimiliano Rocca. Che è un tuo amico? Sì, mio amico. Quindi è stato molto facile? Sì, anche con lui, gli ho detto, lui subito ha detto sì. Ho abbassato una telefonata, gli ho mandato sul pezzo, e così come Paolo Bonfanti su 30 giorni, il chitarrista blues, anche lui è stato... 30 giorni che è in scaletta, l'ascolteremo più fra un po'. Intanto allora ci ascoltiamo questa Nuovo Giorno. Giorno in arrivo, un nuovo giorno in arrivo, lungo strade, visto estate, è in arrivo, su un vecchio carro, dalle fragili ruote, è in arrivo, è il vento caldo che soffia l'estate. Il sole che cresce lento, amore non aver paura, svanirà ogni dolore. nuove da affrontare. Lungo la ferrovia e in arrivo sorvola il torrente tortuoso, qui è in arrivo. Sopra i ponti e le città è in arrivo. Guardami negli occhi, non sono più un ragazzo ormai. Faccio fatica a parlarti e nelle mie mani c'è troppo lavoro. Sui muri scritti da diamanti è in arrivo, tra rovine e serpenti è qui, è in arrivo. Su scarpe rotte e attrezzi è in arrivo. Nelle tue mani, tra le mie, è in arrivo. Radio Sera. Blu Radio Sera. Questo brano era Nuovo Giorno. Diciamo un attimo, allora, questo è un disco che nasce in maniera particolare, quindi anche dei canali di vendita, immagino, diversi dal normale. A parte che ormai i canali di vendita dei dischi non si sa neanche più quali sono, gli autogrill. Dove possono trovarlo gli ascoltatori? Allora, questo disco sarà venduto in occasione della giornata nazionale del 4 aprile in tutte le piazze. Questa è una cosa importante. Invece da vendere piante, gli aranci, i cioccolatini, vendono il disco. Ormai i fiori li hanno finiti. I fiori sono finiti anche perché il tempo è stato brutto e perciò si vendono dischi. Poi verrà venduto sul sito della FIPE, sul nostro sito, in vari negozi a Roma. Il sito della FIPE che è www.fipeonline.it. Ok, e perciò si può ordinare là. E poi in varie manifestazioni in giro per l'Italia, ad esempio a Roma adesso il 17 marzo c'è la maratona e verrà venduto anche alla maratona di Roma. Perciò in varie manifestazioni che mettono al loro interno anche si parla di disabilità o qualche cosa, verrà venduto il disco. Sono tante, sono 10.000 copie, perciò serve una mano per finirle. Insomma, penso che sia un obiettivo raggiungibile, anche perché è un bel disco, ma al di là di quello sappiamo che questo non basta perché il mercato discografico italiano è un po' asfittico, però ecco, come dicevi tu, la gente, noi, io e mia moglie, insomma, spesso torniamo a casa con questi fiori perché una domenica i fiori finiscono, sono bellissimi, poi finiscono, rimane. Sì, diciamo che sono molto più bravo a far sopravvivere i dischi che i fiori, in effetti. Di dischi ne ho tanti a casa, i fiori muoiono quasi tutti. Comunque, al di là di quello, ecco, diciamo ai nostri ascoltatori, adesso state ascoltando le canzoni, sentite che sono belle, che è un bel disco, quindi ci sarà l'occasione, immagino anche qui a Padova e nelle altre città del Veneto, ci saranno nelle solite posizioni strategiche del centro la possibilità di comprare il disco. Cosa ci suoni adesso, Valerio? Ora suono l'ultimo brano del disco prima della bonus track, quella comunale, Resta Sveglia, un pezzo blues, country blues. Benissimo. Ci sono ombre nella notte attraverso il campo aperto, alberi stanchi senza foglie mentre cammino, il vento è freddo, amore, resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. Resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. In lontananza un cane abbaia, la vecchia casa è così vuota, alla finestra la roba è appesa, la luce accesa, la porta è chiusa, amore, resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. Resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. Chiesa ha un buco in mezzo, dormono i santi, è così buio, affretto il passo, mi scoppia il petto, la luna manca, il cielo è spento, amore, resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. Resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. Resta sveglia stanotte, non ho le chiavi e busserò. Direi forse più blues che folk alla fine. È che tu sei, diciamo, come stile chitarristico non sei un bluesman, quindi cioè, diventava un blues fatto da Neil Young, ecco, più o meno. Sei molto più giovane di Neil Young, però specifichiamolo, questo è importante. Questo sì. Però lui è più bravo, purtroppo. Beh, dai, diciamo che lui è più bravo quasi di tutti, quindi non farei un dramma del fatto di non essere bravo come Ora Neil Young. È una impressione. Allora, per chi magari si fosse messo in ascolto in ritardo, abbiamo Valerio Billeri qui in studio con noi a Blu Radio Veneto per presentare il disco Vintage Radio, che ha realizzato con la sua band i pezzi d'assemblaggio, ed è un album creato, diciamo, per aiutare questa associazione che è la FAIP, che è la Federazione delle Associazioni Italiane Para Tetraplegici. Abbiamo avuto anche un'intervista con l'avvocato Falabella, che ci ha spiegato cosa fa questa associazione, che si occupa anche di raccogliere fondi per la ricerca scientifica, perché c'è sempre la speranza che questo tipo di disabilità in futuro possa diventare un ricordo del passato, come altre malattie che siamo riusciti a sconfiggere. E ci sono anche tanti bravi ricercatori italiani che si stanno adoperando per raggiungere questo risultato, e naturalmente hanno bisogno del sostegno, dell'aiuto. Sappiamo che il governo ha impegnato in tante cose, noi purtroppo a comprare caccia, vabbè, a quelle ma tante altre, insomma, alla fine bisogna anche che le persone si mobilitino. La FAIP è una onlus, quindi c'è la possibilità anche di detrarre dalle tasse, e c'è anche il versamento del 5 per 1000. E potete rivolgervi al loro sito, che è faiponline.it, dove fra l'altro si può anche comprare il disco, giusto? Sì, sì. Che viene spedito poi a casa. Del disco adesso ci ascoltiamo un altro brano che si intitola 30 giorni, e dicevi che c'è Paolo Bonfanti. Paolo Bonfanti, un vero bluesman alle chitarre, e Antonio Zirilli. Benissimo, allora ci ascoltiamo questo brano per poi avviarci verso la fine di questo appuntamento con Valerio Billeri. Giorni di nave a vapore, fini in America ci tocca andare. 30 giorni di nave a vapore, fini in America ci tocca andare. Dormendo sul nudo terreno, come le bestie a riposare. Andremo coi carri zingari a girare di città in città. E andremo coi carri zingari a girare di città in città. Costruendo fabbriche e ponti, e questa terra anche nostra sarà. Abbiamo ascoltato la presenza di Paolo Bonfanti in questo brano intitolato 30 giorni, e adesso Valerio ci suonerà un altro pezzo con una tecnica slide molto originale. Il cacciavite, che tu mi hai sfidato, ho detto che ero un country e non un blues. No, se voi siete una band di blue collar rock, di rock operaio, sì, e se vi chiamate i pezzi d'assemblaggio, il cacciavite è un pezzo d'assemblaggio. Esatto, è la ciliegina sulla torta. Adesso vediamo come funziona, perché... bene. Molto molto sabbioso, molto rusty. Faremo un pezzo di De Gregori e lo stravolgerò, se ricordo le parole. Il canto delle sirene. Ah, benissimo. Mm-hmm. non sarà il canto delle sirene che ci addormenterà. Noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, quando qualcosa sulla nostra scia appare e scompare. Non sarà il canto delle sirene addormentarci il cuore. Non sarà il canto delle sirene che ci addormenterà, quando l'oceano risale il fiume attraverso le tempeste, quando la bussola si incanta e si spenge il motore. Non sarà il canto delle sirene addormentarci il cuore. Ascoltaci, oh Signore, mio padre era un marinaio e girava le città. Se l'ha portato il vento, se l'è portato il mare. Non sarà il canto delle sirene che ci addormenterà. Noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, quando la bussola si incanta e si spenge il motore. Non sarà il canto delle sirene addormentarci il cuore. Non sarà il canto delle sirene addormentarci il cuore. De Gregori scorticato proprio nel vero spirito del blues, okay? mi hai smentito alla grande con questo brano. E, prima di chiudere questo appuntamento con l'ultima canzone, che ci farà altro, ci porterà ad un altro grandissimo della canzone italiana, Enzo Iannacci. Esatto, ricordiamo il 24 marzo l'appuntamento alla Fiera di Vicenza con live di Valerio Billeri e i pezzi d'assemblaggio, e la giornata nazionale del 4 aprile in tutte le piazze italiane, dove potrete trovare l'album che stiamo ascoltando questa sera insieme all'autore, a Valerio. Parlavamo di Iannacci, questo è un suo bellissimo pezzo, fra l'altro. L'abbiamo un po' stravolto. Sì, vabbè, giustamente, perché è giusto che le canzoni vivano attraverso una nuova visione molte volte, no? Si dà una seconda vita, facendo scoprire nuove sfumature che il pezzo magari conteneva in nuce e voi siete riusciti a ripescare. Poi giustamente farlo uguale a Iannacci no. Sarebbe stato... Facciamo una figuraccia. Una figuraccia, esatto. Si intitola Sfiorisci bel fiore. E con questo brano noi chiudiamo l'appuntamento di questa sera con Valerio Billeri. Ti ringrazio molto per essere venuto a trovarci e ti faccio naturalmente i complimenti sia per la qualità del disco Vintage Radio che per tutto quello che ci sta dietro, insomma, questa bella operazione. Grazie. Importante, che speriamo abbia il più grande successo. Te lo auguriamo di cuore, tutti noi dello staff qua di Grazie. Blu Radio Veneto. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera ai nostri ascoltatori. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. C'è un fiore di campo che è nato in miniera, per soli pochi giorni lo stetto era a guardare. Di un pianto suo dolce sfiorì in una sera e a nulla le mani valsero a salvar. E un di un bel soldato partiva lontano, fu solo per gioco che lui ti baciò. Piangesti stringendo la fredda sua mano, lui rise con gli altri e il treno vi andò. Svegliarla potrà, mo fuori disperata, ma il viso gaudente, chi passa vicino di lei riderà. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo e lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo e lo sai. Hey! Quest'oggi nell'aria la pioggia cancella, ma presto tornerà. Qui spezzerò il mio pane, starò ad aspettare la pelle mia nera che mi rinfaccerà. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo e lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo.